Il primo progetto, che era il progetto Engage, era, come dicevi assolutamente tu, un telefono console di gioco che permetteva al cliente, attraverso una scheda, di poter installare e giocare a videogiochi in mobile. La nuova piattaforma Engage è invece, proprio dalla parola stessa, una piattaforma, quindi un progetto che è compatibile con una serie di telefoni, e questa è già la prima caratteristica. E soprattutto telefoni già esistenti sul mercato, telefoni che andranno a essere sul mercato nei prossimi mesi. Quindi questo è il primo grande progetto, il passaggio da un singolo prodotto a una piattaforma installabile direttamente dal telefono o da internet su uno di questi, su qualsiasi di prodotti Nokia. Potremmo definirla una sorta di piattaforma di distribuzione di videogiochi? Sì, si tratta in realtà, per essere precisi, di un client, di un applicativo che è installato all'interno del telefono, come dicevo, oppure può essere preinstallato di default nei prossimi telefoni, o che può essere scaricato da internet, che permette al giocatore, al consumatore, di accedere ad un mondo completamente dedicato al mondo mobile gaming, con giochi di alta qualità, definizione grafica di assoluto livello, un'area in cui crearsi un proprio profilo, un proprio ranking, un proprio modo di un nickname, un avatar, proprio tutto quel mondo dedicato proprio agli esperti del mobile gaming.